Tra giugno e luglio 1915 fu chiaro a tutti che si trattava di un vero e proprio genocidio. Il genocidio viene attuato su tutto il territorio della Turchia con impressionante rapidità. Agli armeni, strappati alle loro terre, viene detto che stanno per essere trasferiti in campi speciali, costruiti appositamente per loro. Questi campi non esistono. Una volta prelevati dalle loro case, gli uomini sono divisi dalle donne e dai bambini. Gli uomini vengono uccisi quasi subito. Le donne e i bambini, invece, vengono costretti ad affrontare lunghissime marce in mezzo alle montagne e tra le asperità del deserto siriano. La maggior parte di loro morì lungo la strada. Moltissimi tra donne e bambini conobbero l'orrore della morte per fame o per sete. In un certo senso furono più fortunati gli uomini, che morirono subito dopo essere stati prelevati, non lontano dalle loro case o dalla loro terra. Nella storia resta un caso particolarmente atroce, quello di un ufficiale di polizia che getta 200 orfani in un rogo e li lascia morire tra le fiamme. Lo stesso aguzzino lega mani e piedi a 500 fanciulli, li fa allineare sdraiati sul ciglio di una strada e passa sopra le loro teste con un pesante carro, decapitandoli. Il personale diplomatico americano e in una regione della Turchia scoprì che ad un gruppo di bambini erano state amputate tutte le mani. Bambini con arti amputati. C'erano storie di ogni tipo, donne che dopo essere state violentate venivano impalate, cadaveri mutilati e spogliati di quello che indossavano, e poi i furti, i saccheggi. Fu uno sterminio terribile, anche perché tutto avveniva a distanza ravvicinata. Gli armeni venivano uccisi a colpi di pugnale, spade, asce, e quando andava bene, a colpi di fucile a distanza ravvicinata. Le potenze vittoriose avrebbero dovuto imporre un trattato alla Turchia sconfitta, che si era macchiata di una simile crudeltà nei confronti degli armeni. Se fosse stato subito firmato un trattato, dopo non ci sarebbe stato alcun problema. La Turchia avrebbe dovuto ammettere ciò che aveva fatto agli armeni. Ma il tempo passò. La Turchia si risollevò dalla sconfitta e divenne nuovamente una potenza. Quando si arrivò al Trattato di Losanna nel 1923, era ormai troppo tardi. La questione degli armeni non vi trovò neanche una menzione. Si può dire che da quel momento in poi il genocidio armeno è stato completamente rimosso dalla coscienza del mondo. Prima del 1915 in Turchia vivevano 2 milioni di armeni. Oggi ne restano solo 60.000. Per la Turchia non fu mai immaginata nessuna sanzione. Alla fine della Prima Guerra Mondiale c'è un continente, l'Europa, da ricostruire e la questione degli armeni viene dimenticata. Dopotutto, chi si ricorda degli armeni? Con questa frase Adolf Hitler chiude una pagina terribile della storia mentre progetta la sua grande Germania, una nazione di soli ariani. Sapeva bene che la questione armena era ormai stata completamente rimossa. Con quella frase, dopo tutto chi si ricorda degli armeni, egli intendeva che lungo tutto il corso della storia a essere ricordati sono sempre stati i vincitori, mai le vittime. Un aspetto del genocidio degli ebrei è che di fatto i nazisti presero a modello quello che i turchi avevano fatto agli armeni. L'idea di lasciar morire di fame le persone, di radunarle e ucciderle in massa, di prendere donne e bambini e lasciarli morire di fame o costringerli a marcia della morte, l'idea di esperimenti medici negli ospedali o di camere a gas, tutte queste idee furono mutuate dai tedeschi dallo sterminio di 1,5 milioni di armeni perpetrato dai turchi. Quando prende il potere nel 1933, Hitler fa appello all'orgoglio nazionale del popolo tedesco. D'altra parte, però, con la questione razziale, egli avvelena l'etnia tedesca sostenendo che l'unico tedesco buono e puro è quello ariano. Cosa vuol dire ariano? È un concetto assolutamente ridicolo. Molti ebrei nella Prima Guerra Mondiale avevano combattuto per la Germania sul fronte occidentale contro la Francia o su quello orientale contro la Russia.